magari parlare del Baitella, sì, cioè, parla del Baitella. Il discorso, quando parla lui, se riusciamo a star zitti, perché sta registrando ovviamente, ma anche lui registra. Ecco, no. Sembra della...